GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli, ultimo appuntamento di settimana per GR Europa. Ripartiamo dalla politica agricola comune che questa settimana ha visto la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo approvare il documento di modifica della proposta che arriva dalla Commissione. Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento, ha spiegato che il voto si tradurrà per l'Italia in un aumento di aiuti diretti ai produttori che arriverà a regime a circa 44 milioni di euro. Ma innanzitutto precisiamo che oggi, in un momento di difficoltà economica e finanziaria, l'unico settore che sta dimostrando crescita nel fatturato, nelle esportazioni e soprattutto crescita nell'occupazione è l'agroalimentare. L'agroalimentare italiano è diventato il primo settore come esportazione d'Italia, superando anche l'auto, la meccanica con i suoi 32 miliardi di export l'anno scorso. E quindi la nostra principale meta è stata quella di ridurre i costi di applicazione della PAC, ridurre la burocrazia. L'agricoltura non è uguale in tutti e 27 gli Stati membri, abbiamo bisogno di lasciare una certa flessibilità agli Stati per poterla applicare senza impatti sui redditi, anzi aiutando gli agricoltori. E infine il tema della gestione dei rischi di mercato, rafforzare tutti gli strumenti di gestione del rischio attraverso strumenti assicurativi, fondi mutualistici, sistemi di stoccaggio. Non mancano naturalmente le critiche. L'Associazione Italiana Agricoltura Biologica boccia la proposta di riforma, giudicandola peggiorativa rispetto alla precedente proposta Ciolos. E per il presidente e per il consigliere nazionale di Slow Food Carlo Bogliotti si tratta di un'occasione mancata. Noi esprimiamo un profondo disappunto perché riteniamo che questa posizione che ha posto il Comagri sia una battuta d'arresto sulla PAC. Questo perché i testi adottati dal Comitato in pratica garantiranno che miliardi di euro continueranno a essere spesi per una semplice proroga dello status quo, con un pretesto di un greenwashing che passa attraverso quello che chiamano greening. Cos'è il greening? In particolare è una parte di finanziamenti diretti alle aziende agricole che era inserita nel primo pilastro della PAC, proprio quella relativa ai finanziamenti diretti. L'82% delle aziende agricole europee sarà esente dal greening, e questo mi sembra un dato importante. E poi, senza scendere nello specifico, ci sono tutta un'altra serie di elementi che vanno nella direzione di diminuire fortemente la portata di questa che poteva essere un'occasione importante per rinverdire l'agricoltura europea, renderla più sostenibile. Su radio24.it trovate le versioni integrali delle due interviste. Ma ora andiamo in Mali, dove la crisi alimentare, ha spiegato la commissaria europea all'emergenza umanitaria Kristalina Georgieva, che sentiamo, è la principale preoccupazione per la sicurezza. Nel nord del paese ha spiegato è impossibile coltivare, mentre nel sud premono gli sfollati. L'appello lanciato dalla commissaria UE è che le parti coinvolte garantiscano l'accesso alle organizzazioni umanitarie, l'accesso a tutte le zone del paese. Avremo nostra ospite la commissaria Georgieva nell'appuntamento di lunedì prossimo qui a GR Europa. E intanto l'Unione Europea guarda al mercato dell'auto ecologica, lancia una strategia con una serie di misure che prevedono l'espansione dei carburanti puliti, a partire dalla diffusione di colonnine per la ricarica elettrica, che in Italia dovranno raggiungere un numero minimo di 125.000 punti d'accesso entro il 2020, ma anche una maggiore distribuzione per il rifornimento dei biocarburanti, GPL e idrogeno. Ultimatum di Bruxelles, Grecia, Italia, Portogallo e Bulgaria per non aver ancora adottato misure nazionali di attuazione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici. La direttiva del 2010 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. Il 40% dei cittadini britannici è favorevole all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, mentre il 37% si dichiara contrario. A dirlo un sondaggio di Populus, compiuto all'indomani del discorso del Premier Cameron, che ha proposto appunto un referendum sulla permanenza del paese nell'UE. Bene, con questo siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo GR Europa a radio24.it per rivolgere direttamente le vostre domande agli europarlamentari sui temi dell'attualità. GR Europa torna lunedì, ma continua su radio24.it. Intanto buon fine settimana da Gigi Donelli al microfono, da Roberto Scaltritti in regia. Presto. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.